Incontri di Gianfranco Fabi. Don't stop me now, dei Queen, non fermatemi adesso. Con questa canzone iniziamo l'incontro di oggi. Buon pomeriggio a quanti si ascoltano, buon pomeriggio e buona domenica a Giulio Gallazzi. Buon pomeriggio a tutti e buona domenica a tutti. Prima di presentare chi è Giulio Gallazzi, chiediamo perché questa scelta dei Queen, perché non fermatemi adesso, un momento difficile come scenario esterno, forse è il momento di darsi da fare. Credo possa essere una buona sigla da ascoltare alla mattina, perché siamo in un contesto di grande confusione, di grande incertezza, dove la competizione è una competizione per la sopravvivenza. È difficile parlare di sviluppo in questo momento, si pensa soprattutto a un breve termine, e allora è questo il momento in cui dobbiamo pensare di non fermarci, perché non fermandoci non perdiamo quell'energia, non perdiamo quella forza che poi ci servirà nel momento che abbiamo ricostituito risorse e visione per poter cogliere la sfida, che per definizione sarà una sfida globale. Ecco, lei è presidente e amministratore delegato di SRI Group, ha un passato appunto di consulente di azienda ad alto livello in società di consulenza, ed è stato anche nazionale di football americano, quindi in questa logica del non fermarsi e di riprendere c'è la logica dell'azienda, c'è anche la logica dello sport. Assolutamente sì, non ho menzionato prima che poi a questa canzone sono particolarmente affezionato, perché ho avuto l'onore di guidare la nazionale italiana al campionato europeo nel 1987, vincendo la medaglia d'oro, e quindi questa era la musica che ascoltavamo nello spogliatoio prima della finale. Allora ha portato bene allora. E quindi la logica sportiva è anche una logica che si può adattare alla logica aziendale. Ecco, sì. Che cos'è essere il gruppo? Dunque, SRI è un acronimo che sta per Socially Responsible Investments, e sostanzialmente è un progetto aziendale che è nato nel 2001 con la voglia di approfondire le tematiche della finanza sostenibile, ricercando dei modelli di impresa, dei modelli di gestione del capitale, dei modelli di competizione che tenessero presente sia lo sviluppo economico, la performance economica finanziaria, ma anche il contributo di cittadinanza, cioè il contributo al welfare, al beneficio di società, al beneficio sociale. Ecco, lei affianca questo impegno, diciamo, professionale anche un impegno educativo, è professore al Pontificio Istituto Giovanni Paolo II ed fa parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Benedetto XVI Pro Matrimonio et Famiglia. Nelle prossime settimane, tra fine maggio e inizio giugno, ci sarà a Milano questo 7° incontro mondiale delle famiglie. Lei è molto legato al tema della famiglia. Come legare il tema della famiglia a quello della finanza? Una finanza che sembra appunto che la crisi ci ha fatto vedere, una finanza staccata un po' dal sistema sociale, oltre che dal sistema economico. Mai come in questi momenti ancora, è il caso di sottolineare. Beh, al Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, proprio quest'anno, lo scorso anno, ed è terminato quest'anno, abbiamo lanciato addirittura un corso executive sul tema finanza e famiglia, finanza sostenibile famiglia, che apparentemente sembrano due termini in conflitto, perché chi di noi non vive all'interno della propria famiglia o guardando la famiglia dei vicini, degli amici, il conflitto che c'è fra il vivere la famiglia, i problemi della famiglia quotidiano e quello che leggiamo sui giornali o che viviamo quotidianamente dal punto di vista dell'economia, dei mercati, della finanza, i grandi disastri fatti dalla finanza, le grandi incertezze date dalla finanza, basta non soltanto in Italia, vediamo quello che stanno vivendo negli altri paesi europei, in Grecia, in Spagna. Tassi di disoccupazione in grande crescita, la disoccupazione giovanile, che è un dramma non solo dell'economia e per il futuro, ma è un dramma della famiglia, perché rompe quel patto generazionale sulla quale si fonda la continuità della famiglia, che è la staffetta, se vogliamo, di sostentamento economico che la famiglia deve avere fra padre e figlio per dare continuità. Beh, allora questi sono due termini così distanti in un momento di crisi che noi, al Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, ma anche nella mia attività attività professionale, abbiamo subito voluto ricercare perché non può esserci una distanza, perché non può esserci futuro se esiste questa distanza, non può esserci distinzione fra crescita o sviluppo o benessere economico e benessere della famiglia, ruolo della famiglia nella società, certezza e serenità della famiglia. Allora noi abbiamo approfondito quali possano essere questi legami e quali possano essere delle soluzioni che consentano evidentemente di fortificarli. Ecco, c'è stata forse una sottovalutazione del ruolo della famiglia, dell'importanza della famiglia da parte della politica economica, non dico della politica finanziaria, l'abbiamo detto, ma soprattutto dell'attenzione verso la necessità di rendere più solidi i legami tra la famiglia e la società e quindi anche di rendere la famiglia più capace di svolgere il proprio ruolo, che è quello di continuare non solo la specie ma anche la società. Assolutamente sì. Beh, e che dire, guardi, tempo fa mi è capitato di leggere un libro interessantissimo che ripercorreva nella storia le comunicazioni preelettorali fatti dalle personalità politiche, partendo addirittura da Pompei, arrivando ai tempi d'oggi. E le promesse sono sempre le stesse, evidentemente la famiglia al centro, faremo politiche per la famiglia troveremo delle soluzioni per il benessere comune. E diciamo quindi che dal punto di vista delle parole, la famiglia è sempre stata al centro di qualsiasi governo, di qualsiasi politica, perché altrimenti non avrebbe neanche la possibilità di candidarsi, no? Qualcuno va a ricercare i voti. E in verità poi non è così, perché se vediamo come le normative, le regole e le soluzioni possano poi essere efficienti e pratiche e concrete nell'indirizzo della famiglia, ci accorgiamo che c'è fra il dire e il fare altro che mare, c'è un oceano immenso. C'è poi da dire che basterebbe invece considerare che la famiglia potrebbe essere rafforzato come straordinario ammortizzatore sociale, di fatto lo è già, potrebbe essere rafforzato come straordinario centro di addestramento al lavoro, come di fatto lo è già, ma ha fatto con abnegazione e fatto addirittura totalmente in perdita, totalmente sottraendo energia vitale e al lavoro. Potrebbe essere uno straordinario sistema di controllo sociale, di sicurezza, potrebbe essere uno straordinario sistema di innovazione, un laboratorio di innovazione, e potremmo continuare. Allora, queste cose non sono al centro della politica, ecco che quindi la sua domanda è assolutamente centrata, nel senso che basterebbe aprire gli occhi e vedere come più che un problema la famiglia, a quale ogni tanto dare dei contentini, dovrebbe essere invece una risorsa su cui impostare. Ecco, c'è il proprio Pontificio Istituto di Giovanni Paolo II per gli studi sulla famiglia e il matrimonio ha realizzato un libro che si intitola La famiglia è ancora un affare, in cui c'è anche un suo contributo, Giulio Gallazzi, sul tema proprio della famiglia legata allo sviluppo. Ed Ettore Gotti Tedeschi, presidente dello IOR, nella introduzione dice: salvare la famiglia significa salvare l'uomo, ma per salvare la famiglia bisognerebbe cambiare lo Stato. C'è proprio un atteggiamento della politica, ma c'è forse anche un atteggiamento sociale che pone in secondo piano la famiglia, un comportamento che rende la famiglia poco di moda in fondo, sì, in questo momento. Basta guardare gli indicatori demografici e ci si accorge che come dice appunto giustamente, la famiglia sembra essere poco di moda. Esistono due fattori principali, ce ne sono tanti altri. Uno è che oggi come oggi mettere su famiglia appare come un costo fuori portata per tanti giovani, e questo è inaccettabile. Cioè, mettere un giovane che si trova probabilmente disoccupato, perché il tasso di disoccupazione nel nostro paese ci dice che il 34% dei giovani sotto 24 anni sono disoccupati, e si toglie il diritto a poter pensare, a poter progettare, a poter vivere questa esperienza. E l'accesso al credito, l'accesso alla possibilità di costruire una sicurezza, ecco, questi sono elementi fondamentali. Quindi già l'onere viene vissuta come un onere, cosa che non dovrebbe essere, perché invece è un beneficio, no? Perché poi ci sono delle economie straordinarie. E l'altra è il fatto che la nostra società sicuramente culturalmente pensa che sia molto più allettante non vivere un progetto familiare. Ma questo però è un difetto appunto della società e della cultura, dei messaggi che si vogliono dare, e anche in questo la politica ha una grande responsabilità. E probabilmente è una responsabilità anche del sistema economico, del sistema delle imprese, che deve essere richiamato a una esigenza fondamentale. Incontri. Ancora con i Queens, ancora con Don't Stop Me Now, riprendiamo il nostro incontro con Giulio Gallazzi, presidente e amministratore delegato di SRI Group. Nella prima parte vi faccio un riassunto brevissimo, abbiamo parlato soprattutto del tema della famiglia. Giulio Gallazzi è professore presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per la famiglia e fa parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Benedetto XVI Pro Matrimonio et Famiglia. Ne parliamo con Giulio Gallazzi anche in vista del 7° incontro mondiale delle famiglie che riunirà a Milano migliaia, forse 1 milione di persone, e avrà anche come ospite d'onore, ma come protagonista, Papa Benedetto XVI. Allora, Giulio Gallazzi, abbiamo detto e abbiamo concluso la prima parte parlando appunto della scarsa attenzione della politica, dello Stato, della società alla famiglia, ma guardiamo anche il mondo delle imprese, il mondo delle imprese che lei vive da vicino. Nelle imprese i giovani e il sistema e la logica della famiglia stentano a entrare. Sì. Tentano entrare, ripeto, ci sono delle situazioni evidentemente di rapporto costo-ricavo nelle imprese per cui si pensa che in questo momento sia opportuno non investire sulla struttura del personale, che è effettivamente un pensiero drammatico perché vuol dire che è un pensiero che prevede di non avere bisogno di nuove competenze, di nuove energie nei prossimi anni, cioè non investire sui giovani oggi significa non avere persone preparate fra 5-6 anni inserite nel sistema d'impresa, quindi significa autolimitarsi. Però esiste anche una responsabilità, se vogliamo, anche di questo bisogna riconoscerne dei difetti nel mondo in cui viviamo. Molti nostri giovani vivono la scuola come meramente un obbligo, sono abbastanza tardivi nell'investire su se stessi. Giustamente il ministro Fornero ricordava una cosa che effettivamente noi vediamo nel contesto delle imprese: pochi parlano altre lingue che l'italiano sufficientemente bene per potersi... In Italia si dice quando uno non sa una lingua che la sa in modo scolastico, vuol dire che a scuola non la insegnano. E quindi che vuol dire non saperla. Quindi significa pensare che un mercato nazionale come il nostro, che probabilmente non crescerà nei prossimi 5 anni, vuol dire non avere la possibilità di offrirsi a mercati che invece crescono e dove invece c'è domanda anche di italianità. E allora è un peccato questo, come è un peccato non approfondire tematiche di tecnologia, di management, di formazione professionale, di formazione tecnica, che consente di avere quel bagaglio di strumenti per un giovane per dire: io non sono esperto perché sono giovane, ma so come usare gli strumenti e so come farlo nel migliore dei modi. E allora che cosa significa? La competitività nel lavoro è un aspetto fondamentale e noi dobbiamo aiutare le famiglie a insegnare questa cultura, insegnare ai giovani che è tempo di investire su se stessi, aiutare la società a investire su se stessi anche avviando dei fondi che investano sulla formazione e l'addestramento dei giovani. Ecco, il periodo di crisi è sempre difficile, forse le aziende sono portate più ad attuare una strategia di riduzione dei costi, di tagli del personale, di cercare appunto degli equilibri di bilancio al ribasso. Cercare di guardare al futuro certamente non è facile, però ci sono degli esempi che si possano, non dico di fare dei nomi, ma però degli esempi come atteggiamento di sfida alla crisi, cercando appunto di non fermarsi adesso, come dice la canzone con cui ho iniziato questo colloquio. Ci sono dei nomi, intende come... No, diciamo, non esperienze concrete, magari atteggiamenti. Per esempio, ecco, lei, la sua azienda SRI Group ha delle sedi anche in Svizzera, sì, in Gran Bretagna, in Cina. Sì, ecco, in Cina. Quale può essere la testimonianza da questi paesi di cosa si sta facendo su quello che abbiamo detto? Beh, noi abbiamo scelto di andare in Cina 4 anni fa, all'inizio della crisi. Eravamo presi per matti, perché era il periodo in cui semmai si tirava i remi in barca. La Cina è un contesto, un continente straordinario più che una nazione. Noi abbiamo gli uffici a Shanghai e Hong Kong e ci siamo accorti soprattutto di quanto sia fondamentale respirare la cultura di quel luogo, essere cinesi in Cina. Ma questo forse è il segreto per essere capaci di essere internazionali davvero. Bisogna essere britannici in Gran Bretagna, tedeschi in Germania, cinesi in Cina e via discorrendo, perché questo ti consente di comprendere intanto quali sono i trend in atto. Sai come approcciare un mercato, negoziare, cercare alleanze e sviluppare. Ad esempio, la scelta che noi abbiamo questo ufficio Shanghai che sono 21 persone, 20 sono cinesi e un solo italiano. la cultura invece normale di internazionalizzazione, di trasferire truppe cammellate, di colonizzare, che poi sono persone che si trovano fuori da qualsiasi contesto, anche perché là non è come stare in Europa o anche solo negli Stati Uniti, ma là evidentemente la vita quotidiana parla cinese, e le cose sono in cinese, quindi se uno non è inserito in quel contesto è un turista di lungo corso, nel senso che non... Ma cosa può portare la cultura italiana in una realtà come quelle? C'è un vantaggio competitivo nell'essere italiani? Assolutamente sì. Italianità significa innovazione, creatività. Noi siamo un paese che ha dimostrato di fondare la propria economia sulla capacità di innovare, pensare e trasformare. E siamo un paese, se vogliamo, senza risorse primarie, ma che abbiamo fondato tutto sulla nostra capacità di progettare e realizzare, facendolo con stile, facendolo in maniera diversa, facendolo in modo di qualità. Noi dobbiamo giocare su questo, ma per far questo ci vogliono le capacità, ci vogliono le competenze. Ecco perché non dobbiamo smettere di investire sui giovani. E in più abbiamo uno straordinario patrimonio, che è quello che ci è dato nel nostro paese, che non sappiamo come sviluppare, ma questo sarebbe tutt'altro argomento, ovviamente. Ecco, patrimonio lei, monumentale, culturale, storico. Insomma. In dubbio, un paese che ama, anche per essere stato, lo ricordiamo, capitano della nazionale italiana di football americano. Ecco, forse portare il football americano in Italia non ha avuto molto successo, ci sono dei grandi appassionati, sì. Però indubbiamente, però è qualcosa un po' di fuori dalla logica italiana, no? come gioco. Noi che abbiamo questo sport, usiamo dire siamo pochi ma buoni. È uno sport particolare, uno sport che si fonda sulla squadra. Nessuna squadra nel football americano può vincere in funzione di un campione. Non esiste il campione che trascina la squadra alla vittoria. Sono 11 giocatori in attacco, 11 giocatori in difesa, fortemente amalgamati, ognuno che sa che cosa deve fare lo fa con totale dedizione alla squadra. Quindi questo possiamo prendere come lezione. Il fatto poi che è un gioco che chi non lo apprezza dice è spezzettato, in verità è dato da una grande continuità. È da una successione di momenti, ma d'altra parte la nostra vita è data da una successione di giorni, e quindi ogni volta che si gioca una nuova azione vi è la possibilità di costituire il successo. Ecco, in questo senso finché si gioca c'è possibilità di avere successo, come in tutti gli sport. Ecco. Assolutamente, sedersi in panchina significa perdere. Ecco, ma in questa prospettiva, ritornando sulla logica aziendale, sulla logica economica, questo gioco di squadra forse c'è poco nelle aziende italiane. Totalmente assente, sia a livello di sistema. Il sistema Impresa Italia purtroppo non ha mai funzionato. Devo dire che in questo è largamente mancante le istituzioni. Noi sappiamo la tregenda del nostro ICE che ha vissuto nel tempo. Sappiamo bene che l'ICE, nell'esperienza di molti imprenditori che sono andati all'estero, esattamente era quello che dicevo prima, truppe di funzionari in giro per il mondo minimamente connessi al sistema locale e quindi poco in grado di aiutare le imprese dal punto di vista pratico. Adesso le cose si vogliono cambiare, credo che ci vorrà un po' di tempo, ma il sistema Italia non è mai funzionato come insieme di imprese e non è mai funzionato spesso all'interno delle aziende, perché molto spesso il nostro modo di fare impresa risente di una cultura dominante degli anni 70-80 che è la strategia funzionale, che porta l'impresa a essere ragionata a fette. Ognuno pensa al proprio obiettivo, alla propria qualità, senza pensare che l'azienda non funziona se ha una produzione forte ma il commerciale debole o l'organizzazione debole. Deve avere qualcosa di forte. La logica trasversale, la logica di processo è sempre mancata nella cultura di impresa italiana, che se ne dica negli scritti e nelle pratiche di docenza, insomma. E forse su questo ancora si potrebbe lavorare, perché l'impresa deve essere soprattutto una squadra coesa, con degli obiettivi comuni, con dei premi comuni, con delle competenze interscambiabili e con una forte cultura e personalità distinta dell'impresa. E poi dobbiamo saper fare impresa secondo una filiera o verticale o orizzontale, a seconda di come la vogliamo disegnare, ma supportata opportunamente dalle istituzioni. Ecco, in questo senso forse le istituzioni stanno portando nell'impresa più la cultura della procedura, della normativa, che non la logica appunto della creatività che dovrebbe essere alla base della... Io credo che questo è un discorso non soltanto italiano, direi anche europeo, se vogliamo. Beh, in Italia poi comunque abbiamo dei casi di eccellenza alla rovescia straordinari in questo argomento, però io credo che l'Europa sia ammalata di burocrazia, l'Europa in generale, che se vogliamo è forse la caratteristica più determinante di questo nostro decadimento. Certo. Competitivo. Noi abbiamo invece bisogno di riscoprire quello che è all'origine del successo delle nazioni dell'Europa, che sicuramente è stato legato alla creatività. Pensiamo ai grandi movimenti d'arte del Rinascimento e poi successivamente nei periodi successivi. Dobbiamo riscoprire quell'energia e quella voglia di ricostruire. E per concludere, anche alla forza delle famiglie, che sono poi il luogo di nascita della creatività, della capacità di fare il gioco di squadra. Assolutamente. È nella famiglia, ai giovani, che si insegna di sognare, di continuare a sognare e di non smettere mai di sognare e di non fermarsi. Quindi possiamo essere ottimisti sul futuro, almeno a livello di volontà, almeno a livello di non fermarsi. Lo dobbiamo essere. Io ai miei due figli, Virginia e Filippo, insegno sempre che la cosa più importante è essere ottimisti, perché quello che tu sogni hai i mezzi per poterlo costruire, e nel tempo questo deve essere il sistema forse su cui impostare la crescita dei nostri giovani. Ecco, con questa nota di ottimismo, ma di ottimismo direi molto concreto, perché è basato poi sulle persone, e la concretezza della persona è quello poi che può darci veramente anche la concretezza di una possibilità di credere in un futuro che può essere sicuramente migliore anche per i nostri figli e i nostri nipoti. Io ringrazio Grazie. Giulio Gallazzi di essere stato con noi questo pomeriggio, così come ringrazio Peter Bascapè in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie ancora, buona domenica, l'appuntamento è per domenica prossima.